Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Buongiorno, ci siamo, sono le 15 in punto, anzi le 15 in punto e 15 secondi per essere proprio precisi, però è il 16 maggio, ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è come sempre il nostro villaggio globale, questa la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. Anche oggi avremo tutti i nostri liberi consigli per il fine settimana. E nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Io vi tengo compagnia fino alle 18 dunque, ma anche voi tenetemi compagnia. Come sempre, due strumenti rapidissimi per contattarci: l'SMS 349-238-6666 e il mio account di Twitter @MartaCagnola. E l'hashtag sempre per chi usa Twitter, cancelletto ISDV, ormai lo sapete, il sabato del villaggio è un po' lungo, occuperebbe tutto lo spazio del tweet. Ma mi hanno dato una buona notizia, però è proprio l'ultima volta, abbiamo a disposizione alcune coppie di biglietti per l'ultima tappa possibile del tour di Enrico Ruggeri, 4 coppie per la data di Roma, Auditorium Parco della Musica, 25 maggio. Cosa dovete fare? Ma è molto semplice. Praticamente mi mandate un SMS al 349-238-6666 dicendo mi piacerebbe tanto andare al concerto di Enrico Ruggeri o dicendomi quello che volete, basta mettere i vostri riferimenti, perché i più veloci a mandarci l'SMS, ma anche poi a risponderci quando proviamo a richiamarvi per dirvi che siete stati più veloci, si porteranno a casa questi biglietti per andare a sentire e vedere Enrico Ruggeri all'Auditorium Parco della Musica a Roma il 25 maggio. Io l'ho già detto la scorsa settimana, sono stata a sentirlo a Milano ed è stato un concerto straordinario, bravo Enrico. Ma ora scopriamo insieme i temi della prima ora che passeremo insieme. La musica, con il ritorno prestissimo dell'Eurovision Song Contest, ma anche il ritorno di Eros Ramazzotti. Ovviamente le tecnologie, con Enrico Pagliarini, questa volta parliamo di sicurezza. Tanto cinema con tutte le novità nel weekend, ma subito qualche brivido in televisione. Dove sono? Ti trovi a Wayward Pines. Cittadini di Wayward, siamo davvero benedetti. E ci prendiamo cura l'uno dell'altro. Potresti essere felice qui, Ethan. Non provare ad andar via. Non parlare del passato. Lavora duro! Sii felice! Goditi la tua vita qui a Wayward Pines! Dobbiamo tutti fare la nostra parte! Rispondi sempre al telefono se sta squillando! Pronto? Devi uccidere l'uomo che hai di fronte. Un venditore telefonico. E beh, ragazzi, questo è un brivido che ci promette una nuova serie televisiva. Allora, io non l'ho ancora vista, ragazzi, sono un po' indietro, quindi ho bisogno di un esperto che mi racconti tutto, uno dei nostri preferiti di serie TV. Lui si occupa anche di un canale televisivo che è Iris, ma è anche un super esperto di TV, è il channel manager di Iris, ma anche redattore di Serial Minds, Diego Castelli. Buongiorno Diego. Ciao, buongiorno. Eccolo qua. Allora, Diego, sai che avevo scritto Dario nella scaletta, no? Sì, Diego. Infatti il tuo collaboratore che mi ha chiamato tre volte Dario, ma io... Ma guarda che è colpa mia perché... Non gliel'ho detto. No, ma è colpa mia perché ho scritto Dario. Ma sai perché ho scritto Dario? Perché la scorsa settimana avevo Dario Ceccarelli, ho scritto Dario Castelli, Diego Castelli. Però non ho sbagliato. Se ha sbagliato Daniele quando ti ha chiamato è colpa mia. Daniele, colpa mia. Allora, il nostro Daniele Buonamici. Posso salutare Daniele Buonamici, il mio collaboratore che oggi... Diciamo che oggi è il suo ultimo giorno, ma speriamo di rivederlo presto. Basta, chiudiamo questa parentesi che ho appena aperto. Diego, allora, Wayward Pines, io sono sincera, non l'ho ancora visto, quindi mi faccio consigliare da te. Cioè, tutti mi dicono, ah, ma è una sorta di Twin Peaks, ma Dillon è bravissimo. Com'è? Dimmelo. Guarda, allora, il fatto del Twin Peaks è una cosa estremamente esplicita, nel senso che la serie comunque è tratta da una trilogia di romanzi che si chiama, nello stesso modo, si chiama Wayward Pines, ed è stata scritta da questo scrittore che è Blake Crouch, che ha detto di essersi ispirato dichiaratamente a Twin Peaks, quindi il fatto che di essere stata venduta un po' come il nuovo Twin Peaks è una cosa abbastanza esplicita fin dalla genesi del progetto. Ti dico, noi su Serial Minds, il mio caro socio Marco Villa l'ha trattata abbastanza male, devo dire. Marco Villa ha trattato male Wayward Pines, accidenti. No, ma per un motivo molto, molto, molto preciso, nel senso che ci sono state altre aspettative nei confronti di questa serie, anche per le personalità coinvolte. Ha un cast oggettivamente d'eccezione, c'è Matt Dillon, c'è Melissa Leo che è una vincitrice di Oscar, ci sono tanti bravi attori, e poi tra i produttori esecutivi c'è Michael Night Shyamalan, l'impronunciabile Shyamalan, che è il regista del Sesto Senso, di Science, The Village, eccetera, quindi insomma c'è materiale per avere una bella visibilità, diciamo. Beh, certo, quindi, se alzi così tanto l'asticella, però. Se alzi così tanto l'asticella. Poi bisogna saltare. Poi bisogna saltare. In questo senso qui, secondo me, Wayward Pines salta abbastanza bene. Certo, nel momento in cui dici è la nuova Twin Peaks, improvvisamente hai tutti gli appassionati di serie TV che dicono calma ragazzo, abbassa la cresta. Perché qui la questione è che effettivamente c'è una storia che in qualche modo ricorda, cioè andiamo nella provincia americana, classico paesello, villaggetto che dovrebbe essere il luogo ideale per andare a fare le vacanze, e in realtà sono tutti matti dalle gare, o comunque c'è un'atmosfera inquietante che attraversa tutta la storia. E il protagonista, che è interpretato da Matt Dillon, è questo agente segreto che deve andare a cercare dei colleghi che sono scomparsi, pensa di fare una normalissima indagine e si ritrova appunto in una condizione un po' particolare dove nessuno sembra essere una persona normale. Poi adesso non spoileriamo troppo per chi magari non l'ha visto. No, però, anche perché dobbiamo dire che è iniziato il 14 maggio su Fox, sia in America sia in Italia, quindi insomma non è che possiamo ancora sapere proprio tantissimo, anche esatto. Se secondo me gli appassionati si sono già letti o si leggeranno la trilogia dei romanzi di Blake Crouch. Esatto, cosa io non l'ho fatto, perché a questo punto, cioè, a me dopo il pilot, che ha ha il pregio di avere la firma di Shyamalan, si vede, nel senso che quando deve creare delle atmosfere appunto di inquietudine o comunque di mistero, ce la fa. Quindi gli appassionati, secondo me, delle serie mystery ci trovano dentro degli elementi che da un certo punto di vista sono talmente classici e talmente riconoscibili da essere quello che gli interessa. A noi quello che ha colpito, diciamo, negativamente invece è la mancanza di un certo coraggio, nel senso, è vero che dice siamo una serie, come dire, erede di Twin Peaks, però Twin Peaks è una cosa di 20 anni fa. Se tu 20 anni dopo più o meno mi dai le stesse atmosfere, le stesse cose, improvvisamente non sembra tanto nuova. In più questa distanza temporale fa sì che il fatto che tutti i personaggi di contorno, diciamo, oltre a Matt Dillon, siano strani o siano paurosi solo a vederli, è una cosa che comunque conosciamo, abbiamo visto in tante serie. Quindi diciamo che secondo me bisogna anche aspettare di capire, perché il pilot comunque racconta tante cose, forse più di quello che ci si aspettava. Che ci si aspettava magari che avrebbe tenuto in sospeso più elementi, cosa che invece non fa, perché tende a raccontare tante cose subito. In più è dichiaratamente una miniserie, quindi in teoria dovrebbe concludersi e spiegarci tutto. Quindi da questo punto di vista aspettare, cioè vedere anche gli episodi successivi, comunque può essere interessante per vedere dove vanno a parare. Detto questo, se dobbiamo parlare di grande evento, di grande allora forse bisogna andarci un attimino coi piedi di piombo, per quanto sia un evento da un punto di vista comunicativo e, diciamo, organizzativo, nel senso che ovviamente la premiere in 17 paesi, mi pare, adesso non vorrei dare un numero sbagliato, però mi pare 17 paesi di contemporanei, è comunque una modalità anche produttiva che è interessante e che cerca anche di arginare, sai, certa pirateria, certi fenomeni, sì, per cui... Sì. Lo sappiamo, anche Sky per esempio, ma anche negli Asset Premium, insomma le varie pay TV stanno sempre più cercando di trasmettere le serie più o meno in contemporanea, o se non in contemporanea, in quella settimana di distanza che consente il doppiaggio, eccetera, proprio per cercare di arginare se no la pirateria. Poi figurati con una serie così che lavora sui misteri e sulle non detto, sulle cose che non devi sapere, se te le dicono tutte subito. No, infatti. Tra l'altro abbiamo detto Twin Peaks, pare che stamattina ci sia stata la notizia che Lynch ha detto sì e che quindi lui ha trovato l'accordo con Showtime che farà questo Twin Peaks 2. Lynch è una vecchia volpe, va là, perché era venuta fuori... perché era venuta fuori la notizia che si faceva Twin Peaks e tutti contenti. Poi a un certo punto lui ha scritto su Twitter: no ragazzi, non si fa più. E non si fa più sostanzialmente perché non gli davano abbastanza soldi per farla, che non era abbastanza soldi necessariamente del suo stipendio, ma nel senso di budget, perché lui voleva, sai, è visionario, voleva vedere delle cose, eccetera. Questa cosa qui che aveva detto, in realtà molti sostengono che fosse proprio una sorta di contrattazione in pubblico, no? Per far vedere a Showtime che se non l'avesse fatta loro avrebbero perso parecchio in termini e di credibilità e anche banalmente di ascolti, eccetera. Evidentemente ha avuto ragione a fare questa mossa qui, perché evidentemente questi soldi poi sono usciti e nel giro di un mesetto, stamattina, cioè nella notte, è uscita la notizia. Sì, vedo 13 ore fa, sì. Esatto, da lui stesso confermata che la cosa si farà, e anzi si farà più di quello che si pensava prima, perché si era detto 9 episodi della nuova miniserie, invece pare che saranno di più, e quindi tutti i fan sono contenti. Adesso bisogna vedere, poi adesso vediamo Wayward Pines, poi vediamo quando arriva il fix, vero doc. Vediamo se Wayward Pines a quel punto sarà una roba che reggerà ancora a confronto, o se invece David Lynch passa via tutto. Sarà anche interessante da vedere. Sì, tra l'altro io ho riso molto con questo tweet David Lynch, perché lui ha scritto: no, non fidatevi delle voci che circolano, the rumors are not what they seem, it is, cioè è tutto vero. Ha fatto anche la suspense nei 140 caratteri. Esattamente. Diego, se invece volessi consigliarci una serie di quelle nuove, di quelle appena uscite, da vedere questa primavera, dammi un consiglio per qualcosa da iniziare che non ho ancora visto, magari. Guarda, ti dico che la cosa migliore che io ho visto in queste settimane è stato Daredevil. Che è serie di Netflix, e anche lì sai quelle situazioni di enorme aspettativa, perché siamo in un periodo in cui tra film e serie TV gli supereroi stanno veramente vivendo una rinascita audiovisiva impressionante, e quindi ogni volta che arriva qualcosa di nuovo ti aspetti sempre di più. Questa qui, che ricordiamo è supereroe cieco, eccetera, che veniva da un film bruttino con Ben Affleck, l'unica, diciamo, una delle sue poche dei suoi pochi interventi nell'audiovisivo era quello lì, e quindi la gente non era troppo contenta di questo fatto. È arrivata su Netflix, 13 episodi, all'interno di un progetto più ampio in cui ci saranno altre serie sempre su Netflix con altri supereroi che poi si uniranno in una serie crossover, insomma un progetto di un certo spessore, e effettivamente è stata una bella bomba, nel senso che è riuscita a raccontare in modo un po' diverso da quello che si vede ultimamente, cioè un modo un po' più adulto, un po' più cupo, e anche se vuoi poco supereroistico, cioè una serie che a tratti è veramente un crime, un misto legal, un dramma, però anche con delle scene d'azione abbastanza eccezionali, tutto di coreografia, tutto senza grandi effetti speciali, senza grandi soldi, tra virgolette, però ci ha tenuto lì in una maniera che onestamente non ci aspettavamo. Poi con un c'è Wilson Fisk, cioè Kingpin, il famoso cattivo di tanti fumetti Marvel, che è interpretato benissimo. Insomma, ci sono tanti elementi che ci fanno dire che quella lì, questa primavera, è una delle cose che ci ha colpito. Bello, bello, sono molto contenta. Avrei mille altre cose da chiederti, tipo l'arrivo di Netflix, un sacco di cose, ma io ti aspetto quando ci vieni a trovare in radio. Allora, Diego Castelli, do anche il tuo account di Twitter, che è @DiegoCastelli82, che quando sei giovane puoi ancora metterlo. È importante che si uniscano i miei, ci avrò un bel 140 follower. Guarda, in questo momento 146. Grande! Seguite subito Diego Castelli82, così li aumentiamo. Allora, spinge a scrivere di più su Twitter. Esatto, ma soprattutto ricordo serialminds.com, che è il sito, e saluto anche Marco che abbiamo, abbiamo tirato fuori prima. Grande, e poi vabbè, anche il tuo lavoro ufficiale, dobbiamo dirlo, ufficiale. Channel Manager di Iris, che poi Iris è anche una, è un bellissimo canale. Grazie Diego per essere stato con noi, ti aspettiamo in studio allora la prossima volta. Ben volentieri, ci sarò. Grazie allora a Diego Castelli, noi ci risentiamo tra poco perché dobbiamo andare a Vienna, venite con me a Vienna, ma tra poco, perché adesso prima dobbiamo andare a sentire come va la situazione sulle strade, le autostrade, anche per Vienna in effetti. Il sabato del villaggio. Beh, intanto mi siete un po' timidi perché abbiamo le coppie di biglietti per il concerto di Enrico Ruggeri, 25 maggio, Auditorium Parco della Musica di Roma, basta un sms 349-238-6666, 349-238-6666, ma ve lo ripeterò ancora, poi ci sarà qualcuno che vi prende in giro come al solito perché lo dico troppo, ma vale la pena andare a sentire il concerto che è veramente bellissimo, io lo dico in maniera totalmente disinteressata. Ma nel nostro tutorial per un bel weekend, per i nostri liberi consigli del fine settimana, questa volta c'è anche spazio per molta, molta, molta musica. Chiudo gli occhi e penso a lei. Il profumo dolce della pelle sua è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare. Senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore. Penso solo a te. Vabbè, li avete riconosciuti, hanno vinto anche il Festival di Sanremo e siccome hanno vinto Sanremo rappresenteranno l'Italia all'Eurovision Song Contest. Loro sono il volo e noi andiamo a Vienna perché a Vienna sarà l'Eurovision Song Contest. Chi ci segue, chi segue il Sabato del Villaggio, chi segue Radio Tube, insomma chi segue il sabato pomeriggio Radio 24 saprà già che mi sto per collegare con Eddie Anselmi. Buongiorno Eddie. Ciao Marta, ciao alle amiche e agli amici del Sabato del Villaggio. Come si sta a Vienna intanto? Com'è l'aria? L'area è quella di una pienissima estate avanzata, quindi oggi siamo a 25 gradi, bisogna ricercare l'ombra per avere un minimo di tepore. Direi che è stata una bella sorpresa questa primavera viennese da un punto di vista climatico. Il volo, sono arrivati quest'oggi proprio con tre aerei diversi all'aeroporto di Vienna, siamo qua al centro della città che mangiamo la nostra prima Wiener Schnitzel. La cotoletta diciamolo. Allora diamo delle istruzioni per l'uso, Eddie. Esatto, Eurovision Song Contest, esatto, fondamentali perché chi lo volesse seguire così sa cosa succederà. Tre serate, due semifinali, una finale, ma l'Italia va direttamente in finale. Non è proprio democraticissimo, questo. No, siamo tra i maggiori contribuenti di EBU, il consorzio Eurovisione, il consorzio di emittenti pubbliche europee che organizza Eurovision, insieme a Francia, Germania, Spagna, Gran Bretagna. C'è anche l'Australia quest'anno che va direttamente in finale, perché la 60ª edizione, allora hanno pensato di invitare un ospite speciale e farlo concorrere direttamente in finale. C'è l'Australia che porta una delle sue pop star più famose, Guy Sebastian, tra i 4-5 candidati più favoriti per la vittoria. Ci siamo anche noi, ovviamente. Potrebbe vincere l'Australia, quindi, ma pensa a te, vince l'Eurovision l'Australia. Senti, ci siamo noi molto quotati, scaramanticamente non possiamo dir tanto, però insomma il volo ha delle chance. Abbiamo c'era un giochino che dicevano che tutte le volte che l'Italia vince l'Eurovision vince poi anche la Champions League. In finale di Champions League ci siamo e quindi chissà, siamo ancora in tempo per vincere l'Eurovision. Allora, in televisione Rai 4 le due semifinali, Rai 2 la finale, può Rai 4 le due semifinali, una delle due in differita, quindi sarà in diretta la semifinale dove l'Italia televoterà, differita quella del martedì che verrà trasmessa in mercoledì alle 22.50, ma prima adesso, volevo dirlo io, posso dirlo io che lunedì sera c'è un bellissimo documentario su Rai 4 sulla storia dell'Eurovisione e l'autore proprio è di Anselmi, io sono molto orgogliosa. Andrà in onda quando di preciso? Lunedì alle 22.35 Rai 4. Eurovision Song Story, credo che sia il primo documentario mai prodotto da Rai. Io sono già lì, sono già lì davanti alla TV. L'Italia può televotare, però attenzione, ovviamente non possiamo televotare per l'Italia. Il gioco è proprio quello, votare per gli altri. Noi scegliamo chi è il migliore degli altri e gli altri scelgono, potendo votare anche per noi. Quindi noi dobbiamo essere tranquilli, essere sereni e cercare di concentrarci sulla nostra, sulla canzone migliore degli altri, che può essere la Russia, la Svezia, l'Australia, la Gran Bretagna. Chi lo sa, ci sono appunto due gare, due, ci sono dei personaggi televisivi noti al pubblico italiano. C'è Michele Perniola che ha vinto un'edizione di Ti lascio la canzone come i ragazzi del volo, ha vinto un po' più tardi, gareggia per San Marino, è più giovane. C'è Elaira Dani che speriamo di trovare direttamente in finale, che ha vinto la prima edizione di The Voice. Noi non la possiamo votare in semifinale perché nella semifinale noi possiamo votare solamente in una delle due serate eliminatorie e poi dopo certamente nella semifinale tutti hanno il diritto di voto. Allora ti chiedo un'ultima cosa, l'anno scorso fu l'anno di Concita che fece diventare l'Eurovision molto più popolare di quello che già non fosse in Italia, Concita Wurst, e noi a RadioTube grazie a te ne parlammo per primi in Italia perché tu già ci dicesti occhio all'Austria perché sarà un fenomeno. Quest'anno cosa dobbiamo tenere d'occhio, Eddie? Allora quest'anno probabilmente l'Eurovision non è un Eurovision virgolette freak contest. Concita è un personaggio unico, non si può trovare una Concita all'anno, anche se tanta simpatia fanno i quattro punk diversamente abili che rappresentano la Finlandia con la canzone, pensate, 1 minuto e 27 più corta della storia del concorso. Sono quattro cinquantenni che hanno cominciato la loro avventura nel mondo del punk e nel mondo punk sono un nome, sono stati protagonisti anche di un documentario, sono appunto soffrono, hanno delle grandissime disabilità, però hanno, nel mondo punk gli altri musicisti dicono guarda che loro sono i più normali di tutti, perché vanno in giro, sono andati in Brasile, in Inghilterra, si sono ricavati questa identità e sono veramente fortissime. Beh, sono molto contenta e sono anche molto curiosa. Eddie, aspettami perché arrivo. Berti Kurikanimi Päivä, cioè rappresentano la Finlandia. Quindi dobbiamo imparare anche il nome, sarà difficilissimo. Eddie, non dico niente agli ascoltatori, però io arrivo, in qualche modo arrivo. Eddie, grazie per essere stato con noi, grazie a Anselmi da Vienna e speriamo nel volo. Ciao Eddie. Allora, ora devo fare una brevissima segnalazione alla quale però tengo veramente tanto perché mercoledì 20 maggio alle 21 ci sarà un concerto di Giovanni Caccamo, lo conoscete, ha vinto Sanremo Giovani e il concerto sarà proprio qui nella sede del Sole 24 Ore, nell'auditorium del gruppo 24 Ore in via Monterosa 91 a Milano. Lo segnalo non solo perché è qui a casa nostra ma anche perché è a sostegno dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Come si fa per partecipare? Beh, insomma, è un evento benefico. Tutte le informazioni, se andate sul sito dell'AISM.it/Milano oppure scrivete a info@aismmilano.it. Sono veramente molto contenta di poterlo segnalare e davvero partecipate perché sarà un concerto bellissimo. Ma noi continuiamo a parlare di musica. Porto nel cuore la mia libertà, a ogni costo la difenderò. Dal tutto, dal niente, dal sempre, dal mai, io la vita la prendo così. Amore lo sai che verrò e che me ne andrò via da qui. E se mi perderò io lo farò per te. All'orizzonte nessuna città, solo nubi di polvere. E anche se solo deserto vedrò, fino a te io camminerò. E se la pioggia cadrà, ascolterò quel che dice. Un uomo vivo comunque va, senza avere nessuna abitudine, senza avere nessuna pietà. Beh, un bel periodo per Eros Ramazzotti. Il 12 maggio è uscito l'album, che ha un bel titolo. Prima era uscito il singolo, Alla fine del mondo, album che esce in 60 paesi. Abbiamo parlato di Eurovision, lui va anche al di là dell'Eurovision, 60 paesi per questo album, che infatti esce in italiano, in spagnolo e anche in una versione italiano e spagnolo insieme. Ha scelto un titolo particolare per questo album, perché sembra, non si capisce se è presuntuoso o se è semplicemente un gioco. L'album si chiama Perfetto e abbiamo chiesto davvero qual è il significato di questo perfetto a Eros Ramazzotti. Tutto dal niente, dal sempre, dal mai, io la vita la prendo così. Amore, lo sai che verrò e che me ne andrò via da qui. E se mi perderò io lo farò per te. All'orizzonte nessuna città, solo nubi di polvere. Anche se solo deserto vedrò, fino a te io camminerò. Beh, mentre mi stavo ascoltando e canticchiando questa canzone di Eros Ramazzotti, è già arrivato in studio, no, non vi dico chi è perché parliamo con lui tra poco, anche se gli ascoltatori del Sabato del Villaggio lo sanno. C'è una brevissima pausa e poi con lui parleremo tra poco ancora al Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. Allora, io sono già qua in studio e c'è un indisciplinato che si mette a parlare con... Io, ma devo andare in onda, Enrico Pagliarini, mi spegni il microfono. Allora, tipo così, aspetta, eh. Io sono... E non sentite più niente, perché Enrico Pagliarini si diverte a spegnermi il microfono e a parlare con la regia. Siamo al Sabato del Villaggio, non è che siamo in Parlamento, in Parlamento, come se non ne succedessero lì. Vabbè, volevi chiacchierare con Roberta in regia. Ti piace? Spegni il mute che spegne me. Oh, Enrico Pagliarini, per parlare di tecnologie, questa volta in studio con me. Sono molto contenta, sono più contenta quando sei qua che non quando sei in giro. Così, e anche se sperimenti, anche se sperimentiamo un sacco di tecnologie per provare tutti i collegamenti. Gli ascoltatori non lo sanno, ma noi giochiamo con tutte le tecnologie possibili e immaginabili. Però, allora, come sempre, ho scelto... Abbiamo una canzone? Ma certo, sempre a te. Perché io chiedo a Enrico Pagliarini di cosa vuole parlare, non per prepararmi prima, ma per scegliere la canzone. Sì, così lo accolgo con una canzone sentiamo, a te. Ma secondo me ti piace questa? Sentiamo. Take you where you wanna be. You could be my luck, even if the sky is- tantissima, safe però and safe and sound, sì, sì, no? Sentita, sani e sì, salvi. Sì. Lo so, sì, perché sì, poi sì, appunto siamo in radio, voi non potete vederlo, ma Pagliarini balla, si scatena. Sì, almeno con le dita e le mani. Vabbè, dai, però si scatena Pagliarini. Non è recentissima, non è proprio, recente, però dai. Classico. Sì, sì, però il tema safe and sound, sani e salvi. Allora, è l'ultima volta che perché mi sembra un po' di fare come i medici che dicono fumare fa male. Ah, certo, cioè, le avvertenze. Sì, però sì, ci tengo, perché poi se uno non sta attento alla propria sicurezza, non stradale, ma anche stradale però online, poi possono succedere dei disguidi e uno se ne pente quando ormai i buoi sono scappati dalla stalla. Quindi parleremo brevemente della protezione delle password. Però volevo fare un paragone, la password è una sorta di chiave che ci permette di aprire un sacco di cose online, certo, un sacco di servizi che noi utilizziamo, dalla posta elettronica alla banca, a tanti, che ne so, al 730 che vogliamo pagare online, che vogliamo fare online, poi naturalmente per pagare le tasse, e quindi un sacco di cose. E uno potrebbe dire la password è meno sicura, dipende dai punti di vista, però molti sono convinto che hanno in testa questa cosa, è meno sicura della chiave. Chiave di casa. Sì. Allora non è detto, e non è detto a maggior ragione dopo un servizio che sta espandendosi negli Stati Uniti che si chiama Chiave. Non tradurlo in italiano perché non, cioè, letteralmente non funziona. Non funzionerebbe. Kimi, okay, fammi le chiavi. Allora, diciamo così. Ok, perfetto. Come funziona questo servizio? Attenzione, tu fai la fotografia. No, sta attento. Allora, fai la fotografia con lo smartphone, cioè la tua applicazione Kimi. Fai la fotografia, la chiave, proprio la chiave vera, fisica, su un foglio bianco, c'è un po' di regole. Poi vai ad un chiosco e ti fai fare il duplicato della chiave. Ma no, sì. Allora, l'altra volta abbiamo fatto le statuette in 3D, adesso facciamo le chiavi di casa. Sì. No, però scusa Enrico, cioè io lascio qua la mia chiave di casa sul tavolo, tu fai la foto allora, e vai a farti fare la mia chiave di casa. Quasi, se sono bravo sì, cioè allora, nel senso che devo fare la foto in un certo modo per ragioni di sicurezza, e poi quando vado al chiosco devo usare la mia app con cui sono registrato, la carta di credito, quindi poi il ladro eventualmente verrebbe tracciato. Quindi non è facilissimo fare un duplicato, però tecnicamente è incredibile. Beh, cioè, sì, pazzesco. Perché oggi per fare un duplicato io devo rubarti la chiave fisicamente, o comunque sottrartela per un certo periodo, andare in un negozio, farmi fare il duplicato, poi per non... Sì, diciamo che con destrezza non me lo puoi fare senza che io me ne accorga, è un po' impossibile. Sì, insomma, invece è difficile, accidenti. Sei distratta per ore. Quindi, però, posto che le chiavi di casa non sono... Non è detto che sia esatto. Sì, beh, insomma, bisogna essere bravi, ma uno bravo potrebbe con queste nuove tecnologie copiartele. Noi dobbiamo porre molta attenzione alle nostre password. Molti diranno, vabbè, ma la sappiamo già, però uno deve fare un esame di coscienza e dire, ma sono quello che io so, poi lo trasferisco nella pratica, le mie password sono un po' più complicate che Pippo 44 o che la mia data di nascita o la mia data di nascita, oppure 1, 2, 3, 4, 5, 6, perché è incredibile, ma ci sono ancora un sacco di persone che hanno come password, anche per servizi giudicati poco importanti, ma poi in realtà... molti servizi che noi usiamo online sono importanti perché contengono dati personali, pezzi della nostra vita, e ci sono un sacco di persone che usano ancora Pippo 44 123456. In quel caso non è che bisogna rubarla, basta provare a indovinare, basta tirare a caso. E visto che il mondo online è pieno di ladri e di gente che cerca di rubare dati in giro per la rete, è meglio preoccuparsi. Detto questo, non vorrei che poi passasse l'idea, anche questa è un po' una leggenda metropolitana, che internet è pericolosa, sì. Ci sono i cattivi. A me non è mai successo niente. Facciamo le corna, ma facciamo effettivamente le corna, stocchiamo tutto quello che c'è. Però allora, quindi prima cosa, una password un pochettino impegnativa, quindi un po' complicata, magari con un numero, una maiuscola, un simbolo strano, insomma, eccetera eccetera. Poi bisognerebbe cambiarle ogni tanto le password, ma capisco che questo può effettivamente essere un po' complicato, comunque siamo un po' pigri, allora già è importante che noi ci facciamo una password un po' complicata. Poi dividiamo il mondo in due, i servizi, quelli veramente che dobbiamo, proprio quelli seri, quelli importanti che dobbiamo proteggere a tutti i costi, la banca, ma anche la posta elettronica, che ne so, oggi ci sono delle pubbliche amministrazioni che ci permettono di crearci un account per andare a vedere, per prenotare le visite mediche, per certo. recuperare dei certificati di vario genere. Ci sono effettivamente tutta una serie di parametri, magari riceviamo un numero via posta, cartacee, insomma non è facilissimo, però già se la password è complicata aumentiamo il livello di sicurezza. Comunque, dividere il mondo in due cose che potrebbero anche, se ci vengono rubate, non comportare un grande rischio, allora lì possiamo usare anche delle password non complicatissime, e invece cose dove le password sono effettivamente molto molto molto importanti, un po' come, che ne so, la chiave di uno sgabuzzino e la chiave invece di casa, quella vera e propria. Ma posto che tenersi un foglietto con tutte le password segnate non è proprio intelligentissimo. Allora, è vero che esiste l'esigenza di poi segnarsele queste password, perché sennò perché non so se che le ci sono delle app, non so se allora, sono... Sì, ci sono delle applicazioni che gestiscono tutte le nostre password ed effettivamente sono consigliate e consigliabili. Io personalmente non le uso, ho scelto questa soluzione che può essere criticabilissima, ma è una soluzione. Teniamo conto che la sicurezza al 100% non esiste. Io ho una chiavetta USB, quindi non è online, non è una cosa online, che è protetta da password. Quindi una password, che quella sì, certo, me la devo ricordare, è piuttosto complicata. Se la perdo, sì. Dovresti dimenticarti tutte le password, sì, e la chiavetta e tutto. Diciamo che se perdo la chiavetta, uno mettendosi con un certo impegno potrebbe, beccandomi quella password, entrare e vedermi tutte le altre. Cambi. Però nel frattempo posso cambiarle. Ah, è una scelta, però già non avere una cosa che è online non è attaccabile. E quindi... Tanto non diciamo dove è la chiavetta, perché quella, ecco, non lo diciamo. No. Allora c'è Miria. Però io sono abbastanza ordinato, quindi sono abbastanza. Metodico. Allora c'è Miria, che saluto, Miria Tenucci, che mi fa una domanda molto, molto interessante su Twitter. Ma l'impronta digitale che usa Apple non può sostituire tutte le password? In un futuro potrebbe esserci. Impronta digitale, come si chiama la cosa dell'occhio, il riconoscimento dell'iride. Si andrà verso qualcosa del genere. Sicuramente le password del futuro sono, o meglio, molte delle password del futuro sono i nostri dati biometrici. Allora, qui bisognerebbe aprire un discorso, perché i nostri dati biometrici non possono essere cambiati. Mentre la mia password che genero posso cambiarla, e quindi aggiornarla ogni tanto, il mio dito non è che lo posso cambiare. Quindi nel caso, anche se non è proprio semplicissimo rubare l'impronta digitale, però in quel caso, se me la rubano, me l'hanno rubata definitivamente, non è che posso andare dal medico. Sì, però sicuramente è un buon metodo che garantisce un certo livello di sicurezza e soprattutto semplifica la nostra vita. Però attenzione, ecco un'altra cosa che vorrei dire, che è molto importante: ci sono molti servizi che permettono, oltre che di avere la password, e questo insomma è una cosa che succede sempre, di associare questa password ad un SMS con un numero, il controllo che ti arriva sul telefonino. E quindi nel momento in cui noi ci troviamo in un luogo pubblico, noi entriamo con la nostra password, ma il sistema ci manda un codice che noi abbiamo sullo smartphone, sul telefonino. Il telefonino è tendenzialmente con noi e noi usiamo quel secondo. Certo, è un po' una rottura di scatole effettivamente, però sulle cose importanti. Però se vogliamo essere sicuri dobbiamo perdere un po' di tempo e far fatica. Io dico solo una cosa prima di dare la linea viabilità, sì? un insegnamento che mi ha dato Enrico. Lui non si alza mai dal suo computer senza aver disconnesso, perché magari ti alzi, arriva un estraneo e usa il tuo dalla bravata su Twitter, su Facebook, alle cose importanti. Esatto, diciamo che, ma anche per errore magari uno si mette lì e fa un danno, che dipende poi cosa fai. Certo, se lavori con due tuoi colleghi e ti fidi dei tuoi piccoli colleghi. Certo, poi, quello sì, però sai, in un posto noi grande tendenzialmente potrebbe... ci fidiamo gli uni degli altri, però siamo più di 1000 in questo palazzo, potrebbe anche entrare qualcuno che non c'entra niente con la nostra redazione, per dire. Certo, certo, e quindi effettivamente anche questo è un suggerimento sì, che sì. a me ha dato tempo fa Enrico Pagliarini. Sì, e c'è chi dice anche che bisognerebbe mettere la password anche per accedere al computer di casa, e uno dice ma è casa mia, è casa mia, però se arriva il ladro... Accidenti, dai dai, adesso ci facciamo un momento di riflessione, aggiornamenti sul traffico e poi saremo ancora insieme. Il sabato del villaggio. Allora, a quest'ora Enrico Pagliarini ci svela sempre un'app preziosa, una chicca per la settimana. Anche questa settimana ce l'hai? Sì, sì. Per prima però dell'app volevo dire, se uno non vuole avere problemi di password, sì. fa come Woody Allen che a Cannes ha detto io non ho il computer, quindi chi se ne frega? Ah beh, certo. Perfetto, io la sicurezza, no? chi se ne frega? Sì, esatto. Sto attento a attraversare la strada. Però poi magari gli fregano la chiave di casa. Della macchina. Ecco. Allora, ho scoperto un'app che è emergente nel mondo... dei viaggi. Se dovete prenotare un albergo per questa sera sì. o per domani sera, c'è un servizio che si chiama Hotel Tonight, quindi facilissimo, Hotel Tonight. Hotel Tonight è specializzata o specializzato in hotel per la sera stessa. Cotto e mangiato. Non so quanti, perché dipende un po' dal grado di pianificazione di ognuno, perché ci sono quelli che pianificano tutto e quindi arrivano in un posto, hanno l'albergo già prenotato da tempo, eccetera. A me capita invece di andare, dipende dai paesi, anche in luoghi, arrivo in una città e non ho nessun albergo prenotato, quindi lo prenoto un'ora prima o anche nel momento stesso. Certo. A volte uno può telefonare, tra l'altro ultimamente la telefonata all'hotel può riservare gradevoli sorprese, perché sapete che gli hotel devono garantire certi livelli di prezzo ai vari servizi online, invece se uno telefona a volte dicono ma anche le faccio un po' anche meno. Un prezzo buono, ecco. No? Oppure in alcuni paesi dove non c'è la colazione ti dicono vabbè, ma le offro la colazione. Insomma, Hotel Tonight però per i last minute può essere una soluzione. Ah, che bello, Hotel, sì. Tonight. Mi fa piacere, io sono una abbastanza organizzata sugli hotel, però non si sa mai. Poi soprattutto mai. Ci sono luoghi in cui tanto deve andare a una città molto grande, un hotel lo sì, troverai, lo trovi, oppure esatto, puoi esatto. cambiare città, così. Sì. No, no, bello, bello, mi piace come organizzazione. Enrico, grazie per tutti questi aggiornamenti tecnologici. Diciamo anche gli ascoltatori che possono suggerire delle app che piacciono a loro, certo, particolari. Certo. A volte non le racconto alcune app perché sono per un pubblico ristretto. Adesso c'è un'app che sto provando per chi ha impianti fotovoltaici. Ah, ecco, questa è un po' più complessa. Allora, adesso è il momento di parlare di cinema. So che interessa molto anche a te, quindi resta con noi Enrico, noi parliamo di cinema. Non so che è successo. Ho cambiato pelle, non lo so. Tu sei così bella. Nessuno ti amerà mai quanto ti amo io. Voglio tornare giovane. Beh, è attesissimo perché è bello che i film di cui si parla al Festival di Cannes, che vengono proiettati a Cannes, escano subito dalle sale. Questo è il racconto dei racconti di Matteo Garrone. E allora ne parliamo subito con il nostro Franco D'Assisti. Franco, già in sala, bene, assolutamente, bene. Assolutamente, già in sala. E tra l'altro, nella prima giornata di programmazione, i due film che sono andati meglio sono stati numero 1, Mad Max Fury Road, numero 2, Il racconto dei racconti, numero 3 gli Avengers, ma quelli sono forti anche nel weekend. Però insomma è bello che due film, tra l'altro uno come Il racconto dei racconti, che non è esattamente un film easy, cioè non è neanche difficile, ma è un film che vuole anche un po' di complicità, insomma, nella visione, un po' di partecipazione, ci fosse così tanta voglia di vedere il nuovo film di Garrone da parte del pubblico italiano, e questo mi sembra molto interessante. Il film è un'operazione che lo stesso Garrone ha definito un rischio, si estrapola, si porta a casa una novella, una fiaba di un grande come Basile, che però è un grande datato 1500 e rotti, poi ne fa un film totalmente onirico, senza tempo, su regime, re, mostri, e riesce a stare in equilibrio con una potenza visiva notevolissima e con una freddezza che, a mio modo di vedere, è una cifra stilistica che forse è quella che ha un po' raffreddato, un po' intiepidito, diciamo, la reazione del Festival di Cannes, della platea dei giornalisti. È un film che non ti aspetti, però è un film di grande potenza visiva, questo Racconto dei racconti, che io penso sia adatto a un pubblico anche da sabato sera, per intenderci. Vero, vero. No? Sono d'accordo su tutto, guarda. E sì. Quindi direi che sono contento, perché i nostri grandi registi negli anni 60 e 70 sapevano rischiare, sapevano farti un film che non ti aspettavi. Dici, adesso vedremo il nuovo film di Fellini e vedrai La città delle donne. Ecco, c'era sempre questa voglia di scompaginare le carte. I grandi registi devono fare così, e secondo me visivamente Matteo Garrone è un grande regista. Infatti in questi giorni tutti mi hanno detto, ma com'è il nuovo film di Garrone? Perché sai, a me piace molto Garrone. Ecco, non è nel senso, non aspettatevi un film di Matteo Garrone. Esatto, ecco. Anche se lui è appunto già uno che ha saputo abbastanza sparigliare le cose, no? Quindi davvero un film che io direi può essere il nostro film della settimana, forse insieme all'altro film di Cannes. Eh beh sì, perché tutti curiosi anche di questo ritorno di questo Mad Max dopo qualche annetto. Eh sì, qualche annetto effettivamente sì, mi fai venire in mente che io lo vidi al cinema e avevo un'età scolastica, diciamo così, e quindi insomma di tempo ne è passato, e forse anche questo è un dato importante, cioè il fatto che un film così arriva, e arriva per parlare al pubblico di allora e dire, guarda che io ci sono ancora, sono Mad Max, sono questa cosa che hai imparato ad amare. La rispetta molto quella cosa, però parla anche a un pubblico contemporaneo, e infatti a Cannes si sono alzati in piedi i giornalisti del Grand Théâtre Lumière insieme ai fan che erano fuori per vedere il cast di questo film. Il regista è sempre George Miller, 70 anni e non sentirli. Tom Hardy prende i panni che furono di Mel Gibson, Charlize Theron è bella come al solito nonostante il trucco, gli effetti speciali sono allo stato dell'arte, hai la prima mezz'ora soprattutto che è una specie di corsa con il pedale accelerato senza con gli occhi bendati e le mani legate in macchina, e con l'adrenalina, ecco, quella sì, mi piace, ecco, direi che anche qui chi ha amato vedrà e amerà, chi non conosce conoscerà, e quindi sono contento che in questo weekend di metà maggio ci siano due film che vale davvero la pena spingere il pubblico ad andare a vedere. Film extra Cannes, c'è qualcosa che ci puoi segnalare? Che sì. Rischia di essere travolto poi magari dalle notizie su Cannes? Un po' sì, però infatti bisogna essere intelligenti quando si distribuiscono film piccoli in concomitanza di uscite così importanti, perché l'uscita in massa 100 copie dopo 3 giorni sono diventate 15 e questo è un problema. E invece Antonietta De Lillo ha fatto oltre un bellissimo film che abbiamo visto a Torino e che adesso arriva nelle sale, ma arriva nelle sale alla spicciolata, con una sorta di tournée, diciamo così, che tra l'altro lei, Antonietta, insieme al protagonista del film, perché è un documentario, il fotografo Luca Musella, stanno accompagnando sala per sala. In questo fine settimana il film si intitola Let's Go, un titolo molto molto dinamico, che però dà anche la dimensione, è quasi una risposta a quello che il film racconta. Il film racconta la caduta nel gorgo della crisi di un fotografo di successo. Luca Musella è stato un fotografo che negli anni 80 e 90 ha firmato copertine di Panorama, di Sette, dell'Espresso, e finisce, non dico in mezzo a una strada, ma quasi ci siamo, non nell'indigenza, ma la sfiora, ma nella necessità di arrangiarsi con dei lavoretti, pittando una parete piuttosto che aiutando un amico, e soprattutto nel frequentare, nel trovare accoglienza in quel sottoproletariato che oggi è fatto da extracomunitari, a volte anche clandestini, persone che hanno perso qualcosa di grosso nella vita, e proprio ritrovare l'accoglienza e la solidarietà che ti aspetti quando tutto il resto corre. Ecco, una frase secondo me lancinante del film che dice Luca Musella è che noi non abbiamo più una singola possibilità oggi di dedicare tempo a qualcosa. La nostra vita è fatta di momenti che si devono sempre interrompere per qualcos'altro, e questa riflessione lui la fa con una pacatezza e quasi una leggerezza che sono la cifra del film, che dura tra l'altro 54 minuti, misura da capolavoro direi. Ah, sì. E con Antonietta De Lillo che dimostra di essere una documentarista straordinaria. Veramente un film che io vi consiglio qui al Mexico di Milano in questo weekend, ma poi farà appunto il suo giro, e fatevi il vostro giro anche voi su internet per vedere dove va. Si chiama Let's Go e vale davvero la pena di essere visto. Penso che ne parleremo alla Rosa Purpurea. Ci sarà Antonietta De Lillo, nostra ospite, alle 18, due collegamenti con Cannes, come sempre tutto il cinema che c'è. Grazie Franco, e al prossimo Sabato del Villaggio. Ciao Marta. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e Il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Il sabato del villaggio. Eccoci insieme con la seconda ora del sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale e questa la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. E nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Io ve lo dico per l'ultima volta perché sono arrivati molti sms, ma non sempre chi arriva per primo poi risponde al telefono quando le nostre centraliniste lo richiamano, ve lo dico perché succede spesso. Abbiamo ancora alcune coppie di biglietti per la data di Roma di Enrico Ruggeri, Auditorium Parco della Musica, 25 maggio. Basta un sms, 349-238-6666 è il numero, basta metterci i vostri dati e dirci che siete interessati, magari siete tra i più fortunati o i più rapidi. Il numero serve anche per comunicare con me se volete chiedermi qualcosa. Ad esempio Luca qualche minuto fa mi ha chiesto una cosa da chiedere Enrico Pagliarini, ma Enrico Pagliarini è schizzato fuori dallo studio a fare un'intervista, quindi Luca glielo chiedo la prossima volta di Last Pass. Io intanto magari gli dico di prepararsi se non sa ancora cos'è, ma sicuramente sì, così ce lo dirà assolutamente alla prossima puntata. 349-238-6666 il numero per i vostri sms, e invece per interagire con me via Twitter è molto semplice, l'account @MartaCagnola, l'hashtag ISDV. Ma cosa succederà in questa seconda ora del sabato del villaggio? Parleremo come sempre di Expo, anzi questa volta di alcuni eventi fuori Expo a Milano, poi risparmiare sulla benzina, ma anche le visite per bambini nelle aziende, nell'appuntamento con i consumi e le nuove tendenze. Ma prima parliamo di libri e questa volta si va in gita. Paperback writer. Vanno sempre bene anche quando si parla di libri. Questa volta diamo più spazio ai libri perché sono dei giorni molto particolari a Torino. Beh, Torino è la capitale del libro in questi giorni e per noi a Torino c'è, per una volta non è in studio con me ma è collegata al telefono, Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra. Eccoci Marta, in realtà sono proprio fuori dal Salone del Libro perché entrare lì all'Ingotto, ti assicuro, c'è un rumore pazzesco, quindi non sareste riusciti a sentirmi, e quindi ho detto mi appollaio fuori dal Salone del Libro per riuscire a chiacchierare con voi e poi naturalmente mi immergerò di nuovo fra i libri e gli stand. Segnalaci subito, secondo te qual è il primo libro che ti ha colpito qui a questo Salone del Libro? Allora, devo dire che la scrittrice del momento dal punto di vista delle straniere quest'anno ospite al Salone del Libro è sicuramente Vanessa Diefenbaug. È una scrittrice molto amata in Italia, basta che vi dico il suo primo romanzo, Il linguaggio segreto dei fiori, che era uscito un paio d'anni fa, era stato molto famoso, e adesso è uscito Le ali della vita. Lei è molto amata in Italia, anche qui al Salone devo dire ha avuto un grande successo, firma copie, incontro con i lettori e così via, e in questo romanzo ci parla di una donna, Letty, che così abbandona i figli, ma c'è una ragione, non è così cattiva perché pensa di non essere una brava madre, e poi lungo il romanzo si renderà conto di essere capace anche lei di poter crescere i suoi figli. E sentiamo allora che cosa ci ha dichiarato proprio sul concetto di cambiamento. So I think that change and personal change is one of the hardest that any human being undertakes. Penso che il cambiamento personale sia sicuramente la cosa più difficile per qualsiasi essere umano, e questo succede anche con Letty, ma succede poco per volta, e in ogni momento per tutto il corso del libro Letty, a mio giudizio, fa la cosa giusta, prende la miglior decisione che è in grado di prendere proprio in quel momento. La vediamo all'inizio del libro quando abbandona i figli, sicuramente non una grande decisione, e poi fa tanti oltre l'orrore nel corso del libro. Ad esempio, si ubriaca insieme al figlio Alex, che ha solo 15 anni, porta la figlia a lavorare in un bar, quindi di errori ne fa tanti. Però in ogni occasione impara da quegli errori, soprattutto impara ad aver fiducia in se stessa. E la stessa cosa vale anche per i figli, quando capiscono che non li vuole più abbandonare, imparano insieme a lei e soprattutto intraprendono questo lungo percorso, questo lungo viaggio insieme alla propria madre. And once they learn that, I think they're willing to go along on the journey with her as she changes her life. Quindi personaggio del momento per quanto riguarda i libri al Salone del Libro, e libro appunto del momento invece, Alessandra? Ma guarda, il libro del momento, posso dire, il libro proprio di questa 28ª edizione del Salone del Libro è La Piuma di Giorgio Fletti. Dico che è un po' il libro di questo salone perché è stato pubblicato postumo, naturalmente lo ricordiamo, Fletti è morto nel luglio scorso, quindi meno di un anno fa. E ne parla qui al Salone del Libro la moglie Roberta Bellesini. Lei si arrabbia moltissimo quando qualcuno dice che questo è un testamento morale di Fletti, perché è vero che in questo piccola favola morale lui ha espresso il suo senso della vita, il senso dei suoi valori, ma era un libro che aveva già scritto prima, chiaramente non era consapevole che fosse vicino alla fine della sua vita, quindi veramente si arrabbia moltissimo a chiamarlo testamento. Ed era un testo che Fletti avrebbe voluto diventasse musical, come ci racconta appunto la moglie Roberta Bellesini. In realtà questo libro esisteva già, era un progetto al quale Giorgio lavorava tra virgolette nei momenti di pausa tra un progetto e l'altro. Era un progetto molto articolato, perché nella sua testa doveva essere soprattutto un musical. E quindi lui aveva cominciato a lavorare alla parte scritta, quindi c'era stata la stesura della storia, quindi la creazione di questi personaggi, ma quella appunto voleva essere la base poi per lavorare a un progetto più ampio, quindi con dei testi musicali, delle musiche e delle canzoni vere e proprie. Ma diciamo, sarebbe stata una parentesi, avrebbe continuato a scrivere i suoi thriller, i suoi gialli, o era una svolta anche nella sua scrittura, nel suo rapporto con i lettori? Sicuramente era una parentesi, stava buttando giù le idee per altri romanzi che sicuramente seguivano insomma la scia dei precedenti, quindi questa sicuramente voleva essere una parentesi, fondamentalmente perché comunque per lui una componente fondamentale del suo percorso artistico era la musica, e quindi ogni tanto lui aveva proprio necessità di portare la musica all'interno della sua produzione artistica, e quindi questa sarebbe stata una parentesi. Alessandra, noi ci ritroviamo ancora con te tra pochissimo, perché è il momento di andare a sentire come sta andando la situazione su strade e autostrade, poi saremo ancora insieme al Salone del Libro di Torino. E rieccoci insieme ancora per parlare di libri. Oggi abbiamo dato uno spazio più corposo ai libri, non solo perché se lo meritano e se lo meriterebbero sempre, ma perché c'è in questi giorni il Salone del Libro di Torino e abbiamo al salone, anzi l'abbiamo detto fuori dal salone perché dentro c'è troppo rumore, Alessandra Tedesco. Alessandra, però diciamola agli ascoltatori, la settimana prossima potrebbe anche essere che facciamo il contrario, che sarai tu dentro e io fuori, eh? Esatto, noi ogni tanto ci scambiamo i ruoli. Io sarò dentro e tu sarai inviata, non diciamo dove. Non diciamo ancora dove. È una sorpresa. Non diciamo dove, ma potrebbe accadere il contrario. Alessandra, allora, io sono molto curiosa perché noi parliamo sempre di cibo. Ma lì com'è la situazione libri e cibo? Guarda, da alcuni anni qui al Salone del Libro a Torino c'è proprio una sezione dedicata ai libri di cucina che si chiama Cookbook, dove fanno anche chiaramente gli show cooking, ci sono gli chef stellati e meno stellati, insomma se ne vedono veramente di belle. Devo dire, a me i libri di cucina piacciono parecchio, soprattutto quelli, sai, delle foto patinate, molto carine, molto belli, proprio da sfogliare. Però mi sono un pochino, ho fatto il lavoro della giornalista, sono andata a indagare, ho detto ma vendono poi così tanto questi libri di cucina? Allora, quello che abbiamo scoperto, mi rendo conto di non aver fatto uno scoop, però insomma, è che vendono soprattutto i libri degli chef televisivi, quindi Cracco, Cannavacciuolo, oppure dei personaggi televisivi come la Clerici o la Parodi. E forse ti stupirà, ma i vincitori di Masterchef, hai presente chi vince Masterchef? Sì, che può pubblicare il libro? Nin, nin, nin, nin. non vanno proprio benissimo. Allora ci si fida del giudice ancora? Sì, del giudice e forse anche del fascino. Bisogna vedere adesso l'ultimo vincitore di Masterchef come andrà il suo libro, perché magari hanno vinto personaggi non particolarmente simpatici e accattivanti per il pubblico. Ah, beh, insomma, io devo dirti che la scorsa settimana ero al Festival di Dogliani, il Festival della Televisione, c'era Cannavacciuolo che ha creato il delirio. Tu chi hai incontrato in particolare? Allora, io ho voluto incontrare, fra i tanti che ci sono qui, ma che scrivono libri di ricette, di food e così via, Federica De Denaro, perché lei è un personaggio televisivo, noto soprattutto a chi guarda Rai 1, diciamo, nella fascia pomeridiana, ha scritto questo libro, Ricette d'autore, sugli chef, eccetera, eccetera, e quindi a questo punto era d'obbligo la domanda, rapporto cuochi TV, perché hanno così tanto successo? Sentiamola. Sono assolutamente delle star, sono realmente trattati proprio come degli idoli veri e propri. Io penso che dietro questo successo ci siano diversi elementi. Innanzitutto noi italiani abbiamo la cucina nel sangue, nel senso che la nostra cucina non parte dai ristoranti ma parte dalle case. Poi per quanto riguarda proprio il fenomeno invece degli show televisivi, ti dico una riflessione che mi ha fatto fare Gennaro Esposito. Lui giustamente diceva: a me piacciono, li guardo, ma perché nessuno riesce a far capire che dietro uno chef ci sono 16-18 ore di lavoro? Perché vediamo questo aspetto, diciamo, scintillante, affascinante, che piace a tutti. Però dietro uno chef di successo c'è veramente una fatica enorme. Ma Federica De Denaro le acquista i libri di ricette, insomma, parte il libro che tu hai scritto. Tu compri libri di ricette di cucina, di food o no? Io sono un'appassionata di libri di ricette, ne ho una quantità smisurata, anche dei concorrenti in questo momento fuori, insomma. Quindi se un giorno tu dovessi essere nervosa, ti potremmo dire 200 grammi di farina, 100 di zucchero e 50 di burro e tu stai a posto. Già mi sono rilassata mentre lo dicevi. Ma è carina Federica De Denaro, mi incuriosisce molto. Alessandra, sì, lei ha detto che si rilassa sfogliando libri di ricette. Vabbè, ognuno, ciascuno il suo, no? Io mi rilasso al cinema, tu? Io leggendo, che domanda banale, che risposta banale, più che altro. Ma chissà perché io ho citato il cinema, diremo mai? Diremo mai, perché insomma altri libri di tendenza sono quelli che hanno a che fare con il cinema, nel senso che abbiamo spesso parlato al Sabato del Villaggio dei libri che tornano ad essere famosi nel momento in cui esce il film nelle sale e così via. Ma a questo proposito c'è la guida delle guide ai film e alle serie televisive, basta che ti dico un nome, Morandini, pubblicato da Zanichelli, per te è la Bibbia praticamente. Eh beh sì, testo di riferimento assolutamente importantissimo. Testo di riferimento, sono praticamente compresi tutti i film che sono stati fatti, diciamo, nella storia. Io ho provato a fare questo giochino, il volume è piuttosto corposo, Marta, te lo porterò e sono almeno credo 2-3 kg lo apri a caso, io ho provato ad aprire a caso, ho detto vediamo se questo almeno uno dei film compresi in queste due pagine li ho visti, sono veramente una schiappa, devo recuperare molto. Allora ti facciamo dare un consiglio su come recuperare, così entro un po' di tempo ti funziona meglio il gioco. Abbiamo in collegamento telefonico il direttore di un'altra delle Bibbie, Chuck, il Vensile Chuck. Buongiorno, Piera De Tassis. Buongiorno. Beh, direttore, per recuperare bisogna vedere. Vedere. Da cosa vedere, partiamo? Vedere. Si parte da Lumière o da cosa? Se bisogna partire da Lumière è durissima, però va bene. Beh, io consiglio di partire dagli anni 60. Dagli anni 60, dalle Nouvelle Vague, e poi si va a ritroso a riscoprire la grande Hollywood. Però insomma, parliamo dei nuovi linguaggi, su, Truffaut, Godard, eccetera, la nuova Hollywood, quegli anni lì, perché così non mi terranno distanti, e poi si va avanti, si va indietro, e si riscopre la grande Hollywood degli studios. Ma insomma, io, chiedere a me da dove partire, io direi da tutto, da qualsiasi cosa. Che meraviglia. Qualsiasi cosa abbiamo. Un'immagine. Alessandra, hai preso appunti, Alessandra Tedesco? Io ho preso appunti, però a questo punto punto io vi propongo una sfida: Piera De Tassis da una parte, Marta Cagnola dall'altra. Io apro il Morandini a caso. No, vabbè, ma così difficile. No, non hai visto questa sfida perché è sempre il film che non hai visto. È vero, non sai nulla. È come i festival: vince il film che sei uscito prima della fine. Esatto, esatto. Infatti, vinceranno tutti i film di oggi perché sono a Torino e torno stasera. Quindi. Ecco, allora, come mai Piera De Tassis in arrivo al Salone del Libro? Beh, in arrivo al Salone del Libro perché c'è anche un premio particolare che viene dato quest'anno, il Morandini, e Piera De Tassis fa parte della giuria. Però sono in ottima compagnia. La giuria è una giuria che ha selezionato e oggi decreterà tre corti. Per oggi ci sarà il corto vincitore, un corto che è denominato appunto Corto Morandini, in qualche modo concorso Corto Morandini, e il premio sarà anche il fatto di essere inseriti nella prossima edizione della Bibbia appunto Morandini di Zanichelli. La giuria è particolarmente prestigiosa perché il presidente, il nostro amato presidente Ferzano Ospetek, ma poi ci sono Paola Minaccioni, Valentina Lodovini, Neri Marcorè, Giappi Cucciari, Carolina Crescentini, Luisa Morandini, Roberto Pisoni di Sky Art, Pier Giorgio Gai, Antonello Catacchio, Massimo Scarafoni, Gaetano Liguori e Ilaria Falcone. Come avete capito, insomma, è una giuria prestigiosa, piena di passione per il cinema. E quindi è una specie di festa questa che si fa attorno al Morandini, Luisa Morandini, e è una festa anche nella. E possiamo anche ricordare che Ospetek ha scritto anche un libro, perché qui al Salone del Libro, allora, per il suo secondo libro, il primo era Rotto Istanbul, questo l'ho appena comprato e non mi ricordo come si intitola, però voi lo sapete di sicuro, ed è qui per presentare. Ma sono un po', devo dire, molti di questi personaggi che ho nominato sono qui al Salone del Libro, perché Neri Marcorè sta facendo una trasmissione appunto dal Salone del Libro. Devo dire che il Salone del Libro è poi diventato una specie di punto d'incontro, a me dispiace solo, formidabile punto d'incontro, dispiace solo che avvenga proprio in contemporanea a Cannes. Bisogna dividersi. Siamo dovuti volare qua, io e il collega La Rosa, perché e tornare questa sera sperando di riuscire a entrare all'ultima proiezione di Carol di Todd Haynes, cosa che non riusciremo a fare sicuramente, però. Ma straordinario. Beh, è bellissimo parlare di libri e di cinema insieme. Io intanto ringrazio il direttore di Chuck. Quindi buona giornata a Torino e buon rientro a Cannes, meraviglioso. Buona giornata a Torino e a Cannes, hai capito che giornatina? Ah, da poco. Grazie direttore, a presto. Alessandra, beh, vedi come così siamo dinamiche. Voglio concludere con una chicca. Qual è l'ultima chicca dal Salone del Libro per noi, Alessandra? Allora, ti dico due notizie a proposito di cinema e libri. Innanzitutto che è stato proprio annunciato qui a Torino che un libro del 2005 di Lorenzo Marone, Esordio, Il desiderio di essere felice, diventerà un film, come stanno per iniziare le riprese del film tratto dal libro Io chiamo solo te di Luca Bianchini, ambientato in Puglia con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti. Ma Luca Bianchini è qui al Salone del Libro per presentare proprio la sua ultima fatica, Dimmi che credi al destino, che è un libro che fa parte di un filone di libri che fa tendenza, cioè libri che parlano di libri o di librai, perché è ambientato a Londra, la protagonista è Ornella, una libraia, la libreria che sta per chiudere. È un cliché? L'abbiamo chiesto a Bianchini. Certo, io adoro i cliché da sempre, mi piace, questo poi è un cliché anni 90, però questa è una libraia che se poi leggerete scoprirete che è veramente speciale e inimitabile ed esiste veramente, cioè è tratto da una storia vera di questa, si chiama Ornella Tarantola, e beh, e quando se lo leggerete capirete che, cioè, le star della sua libreria sono due pesci rossi, uno di nome Russell e uno di nome Crow, e poi uno dei due è morto, che è Crow, e probabilmente è stato Russell a ucciderlo, questo sostiene Ornella. Alessandra, grazie per essere stata con noi, anche se inviata al telefono da Torino, al Salone del Libro di Torino, ne hai parlato e torneremo a parlarne nel Cacciatore di Libri. Appuntamento? Appuntamento stasera alle 22, naturalmente uno specialissimo, puntata speciale dedicata al Salone del Libro di Torino, alcune cose le avete già un pochino assaggiate, altre le sentirete stasera alle 22. Grazie Alessandra, a presto! Ciao Marta! Il sabato del villaggio. Rieccoci insieme al sabato del villaggio, l'ultima mezz'ora del sabato del villaggio, perché poi dalle 17 alle 18 il nostro appuntamento con l'attualità della rete e dalla rete con il nostro RadioTube. Come sempre, per contattarci il numero degli sms è 349-238-6666, ma io ho sempre con me il mio account di Twitter, il mio tablet con Twitter aperto, chiocciola Marta Cagnola è il mio account di Twitter, cancelletto ISDV è l'hashtag, come le iniziali di Il Sabato del Villaggio. Beh, il sabato pomeriggio di Radio 24, magari sì, qualcuno ha acceso la radio adesso, magari qualcuno non ha mai acceso la radio il sabato pomeriggio su Radio 24, potrebbe essere. Allora, il sabato pomeriggio di Radio 24 è il nostro villaggio globale e questo è il nostro tutorial per un bel weekend. Sono i liberi consigli per il fine settimana, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, cinema, ma anche in fatto di tecnologia, di libri e di consumi. Quindi di parlare di consumi, come sempre scegliamo della musica a tema. Allora, qual è il tema di questa settimana? Di cosa parliamo con Maria Luisa Pezzali? Lo chiediamo subito a lei. Buongiorno Maria Luisa. Ciao Marta, un saluto a tutti. Ebbene sì, parliamo di gruppi d'acquisto, ma non di quelli classici, quelli conosciuti e diffusi soprattutto per il mondo dei prodotti alimentari. Parliamo di una novità molto interessante, i gruppi d'acquisto per la benzina, per abbassare il costo della benzina ottenendo appunto questa, la forza del gruppo degli sconti. È la prima iniziativa del genere in Italia, ha solo due precedenti in Europa, si stanno raccogliendo le adesioni proprio in questi giorni, a promuoverla è altro consumo. E allora ce la facciamo raccontare dal presidente Paolo Martinello, buon pomeriggio. Ecco. Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio, interessantissimo. Sono curiosa di sapere come funziona, perché già conoscevamo, non so, i gruppi d'acquisto per la spesa quotidiana, ma per la benzina, Maria Luisa, come funziona? Chiediamolo al presidente. Abbassa la benzina, no? Il nome dell'iniziativa. Sì, il nome è questo. Fa seguito ad altre iniziative come abbassa la bolletta e abbassa la tariffa, che si sono svolte nel 2013-2014 e che sostanzialmente stanno portando l'esperienza dei gruppi d'acquisto al di fuori dei settori tradizionali, come dicevate voi, quello dell'alimentare in particolare, e in settori molto più difficili da gestire attraverso gruppi d'acquisto, ma che stanno avendo grande successo. Quello della benzina nasce un po' sull'onda dell'esperienza di quello della luce del gas di 2 anni fa e dell'anno scorso, quello della telefonia che è tuttora in corso. Parliamo di gruppi d'acquisto che hanno raccolto centinaia di migliaia di persone, quello dell'energia 200.000 adesioni, quello della telefonia che è tuttora in corso, siamo quasi a 100.000, questo della benzina stiamo raccogliendo le adesioni, c'è ancora tempo fino a luglio, e lo scopo, il meccanismo è relativamente semplice. Raccogliamo tutti i consumatori che intendono far pesare, diciamo, no, il loro mettersi insieme ad altri. Altro Consumo poi negozierà con le compagnie petrolifere, come ha fatto con quelle dell'energia, della luce, del gas e della telefonia, degli sconti e delle condizioni particolarmente favorevoli. Poi chi ha aderito sarà libero poi di formalizzare la sua adesione al gruppo dopo che avrà visto visto i risultati della negoziazione e potrà decidere se vuole, se gli conviene, se gli interessa aderire. Diciamo che è un'esperienza che serve a far pesare il consumatore a livello collettivo, a livello di gruppo, e quindi con i vantaggi che questo può portare sul piano economico soprattutto. Ecco, che tipo di risparmi prevedete? Siamo nell'ordine di quali cifre? Siamo nell'ordine allora naturalmente questo sarà dipenderà poi anche dall'asta che andremo a fare tra le varie compagnie e quanto queste vorranno farsi concorrenza fra di loro. Noi puntiamo ad un risparmio di almeno il 10%. Nel caso della luce e del gas, per avere un parametro di riferimento, dopo un'asta molto combattuta, devo dire, tra imprese anche relativamente piccole, che sono quelle più interessate ad avere ovviamente una presenza sul mercato e conquistare anche nuovi consumatori, abbiamo ottenuto un risparmio di oltre 200 euro all'anno sulla bolletta della luce e del gas, che voleva dire mediamente un risparmio di più del 15%. Nel caso della telefonia abbiamo calcolato un risparmio medio del 60%, scusate, di 60 euro all'anno, però ripeto, il gruppo è ancora aperto, quindi c'è la possibilità di migliorare, e per la benzina vedremo, ma io sono abbastanza ottimista, perché il prezzo della benzina in questi ultimi mesi, come abbiamo visto, è oscillato, ha raggiunto delle punte anche di molto basse rispetto all'esperienza negativa degli anni scorsi, adesso è riaumentata, però secondo me c'è margine per negoziare degli sconti interessanti. Il petrolio è ancora a livelli bassi, quindi sicuramente è un momento favorevole per spuntare prezzi convenienti. È chiaro che questo non lo può fare il singolo consumatore, che non può andare in una pompa di benzina a negoziare il prezzo del gasolio, della benzina, ma lo può fare altro consumo, lo può fare un gruppo che fa una convenzione, negozia uno sconto e poi ne gode per tutto il periodo in cui durerà l'iniziativa, almeno un anno. Beh, io viaggio a metano, però siccome un po' di benzina la faccio, adesso mi informo. Tra l'altro ho visto che sul sito di Altroconsumo c'è anche una guida per Expo, per cavarsela bene con Expo, visto che non ne parliamo tanto nel Sabato del Villaggio, anche questa è molto comoda. Grazie mille, grazie per essere stato con noi. Io ricordo il sito altroconsumo.it, perché lì ci sono tutte le indicazioni utili. Esatto. Grazie a Paolo Martinello per essere stato con noi. Grazie a voi. Maria Luisa, invece per noi è il momento dei consigli anticrisi. Beh, insomma, già ne abbiamo dati un po' in questo appuntamento con il Sabato del Villaggio, però adesso cosa andiamo a scoprire? Non c'è mai fine. No, meno male. Consigli anticrisi, abbiamo già in collegamento la nostra esperta, la direttrice di Markup Egidio Week, Cristina Lazzati. Ciao Cristina, cosa ci racconti oggi? Buon pomeriggio a tutti. Eccoci qui, parliamo di ogni tanto parliamo di risparmio, ma parliamo di risparmio ambientale, in questo caso parliamo soprattutto di investimenti sul futuro, quindi parliamo di bambini, cosa che a me piace moltissimo. Allora, spesso ci si chiede, soprattutto nei fine settimana, ma dove portiamo il bambino, cosa facciamo, cosa gli facciamo fare, perché siamo abituati comunque a riempire le attività. Grazie al fatto che comunque Expo ha portato alla ribalta tutta cosa del cibo, negli ultimi anni molto di moda era fare corsi per chef, adesso invece comincia ad essere diffuso più o meno in tutta Italia una serie di corsi legati proprio all'educazione alimentare e alla diversità e alla stagionalità e al chilometro zero. Ma a questo punto andiamo, data la premessa, a fare questo piccolo giro d'Italia per capire chi e come. Allora, cominciamo con Torino. Torino, proprio legato all'Expo, ha portato un progetto di Michele De Lucchi, dell'architetto Michele De Lucchi, all'Agorà, e ha creato un'Agorà a Torino, dove proprio nasce un luogo, è nato un luogo dove si fanno tutta una serie di corsi fino al 31 ottobre, dove si coinvolgono i bambini ovviamente con il gioco, tutto questo da 0 a 13, quindi possiamo immaginare che ci sia, magari forse per i bebè neonati non c'è moltissimo, ma sicuramente per i bambini dall'elementare in poi, tante tante attività, in questo caso, che si ritrova sul sito o di Expo proprio della Compagnia di San Paolo, che è l'organizzatore mente di questa cosa. Con Italy giriamo un pochino più l'Italia, perché Italy organizza Torino, Milano, Roma, Bari, Piacenza, Genova, Pinerolo, Monticello d'Alba, proprio della didattica per le scuole, che tra l'altro è bellissimo. Vi ricordate il gioco dell'oca che facevamo da bambini? Qua si chiama il gioco della gallina, dove devi rispondere a una domanda e ti fanno assaggiare dei cibi, quindi il bambino si mette in bocca una cosa e gli si chiede cosa ti fa pensare, come ti piace, lo senti dolce, cioè, quindi c'è proprio un'educazione al gusto, senza indirizzarlo da una parte o dall'altra, però sicuramente è quello di iniziare proprio a gustare il cibo e a sentirne le differenze. E poi ci sono ovviamente dei giochi legati, però si fa questo, il mimo, modi diversi di raccontare, in maniera che si va incontro anche ai bambini più piccoli, che magari non sono così articolati nel linguaggio, ma che possono, come dire, utilizzare i loro schemi per relazionarsi col cibo. Consumatori consapevoli fin da piccolissimi, Cristina. Fin da piccolissimi, perché come dire, tutti immagino abbiamo avuto il momento in cui se c'è qualcosa di verde nel piatto non lo mangio, in questo modo la cosa verde diventa un gioco, diventa una forma, diventa una storia, e lo storytelling per i bambini, come dire, sappiamo, funziona benissimo. Poi vi porto, se abbiamo ancora un attimo di tempo, andiamo in Austria, in Tirolo, con lo Acre, che tutti un po' conosciamo per via dei famosi Wafer. Bene, c'è una pasticceria interattiva, questo è un progetto che è per i bambini ma anche per le famiglie, in cui un wafferista, non sapevo che esistesse il lavoro del wafferista, ma invece esiste, conduce, qui in questo caso bisogna prenotare per fare questo gioco, in questo mondo bontà si chiama, alla sede, vicino alla sede di Loacker, ti conduce a farti il tuo wafer, per cui vedi come viene cucinato, lo aiuti a fare quello che bisogna fare, non ho la più pallida, non ho fatto il corso, ma lo farò sicuramente se passo dal Tirolo, scegli il gusto da mettere nel tuo wafer e poi te lo porti a casa, quindi l'hai fatto tu, ma come dire, con un wafferista che ti ha seguito. Infine, visto che abbiamo parlato, avete citato anche prima Expo, sicuramente sul sito di Expo Milano c'è tutto il mondo dell'Expo Children Park, ma legato sempre a Expo e sempre a Milano, con il MUBA, ci sono 6 mesi che il Museo dei Bambini, inaugurato pochi mesi fa, ci sono 6 mesi di attività ludiche ed educative che si fanno proprio alla rotonda di Via Besana, sempre legati al cibo, alla sua conoscenza. In questo caso ci sono sia possibilità per le scuole, ovviamente durante il periodo scolastico, sia invece per attività fatte in singolo con prenotazione prima. E con questo ho finito. E devo dire che mi piacciono tanto, spero che non siano solo per bambini, perché è venuta voglia anche a me di provarle, non so, Maria Luisa. Partiamo subito. andiamo. Grazie Cristina per essere stata con noi, al prossimo sabato. Ciao Cristina. Grazie a voi. Maria Luisa invece con te l'appuntamento è anche domani a Essere Avere. Domani alle 15 come sempre. Ciao Marta, ciao a tutti. Il sabato del villaggio. E qui al sabato del villaggio parliamo tanto, inevitabilmente, di Expo. Lo abbiamo fatto anche adesso con Cristina Lazzati, perché Expo sta caratterizzando Milano, sta coinvolgendo un po' tutta Italia. Ma Expo non è solo a Rofiera, nei padiglioni di Rofiera, ci sono tante iniziative in città e non solo in città. Il nostro Adriano Palozzi, devo dire bene questo nome, lo stavo dicendo male, fatemi ripartire da capo. Il nostro Adriano Palazzolo, bravo Adriano, ti meriti che io dica bene il tuo nome. Il nostro Adriano Palazzolo è andato a curiosare alla presentazione dell'iniziativa Edison Open for Expo e si è fatto spiegare tutto da Andrea Prandi, direttore comunicazione di Edison. È un appuntamento che dura 6 mesi per partecipare al dibattito che c'è sul futuro. In particolare avremo una settimana completamente dedicata a start-up, ricercatori, in Foro Buonaparte, dove apriamo per la prima volta il palazzo per tutta la durata di Expo, dove ci saranno economisti, premi Nobel, la direttrice del CER di Ginevra. Insomma, sono tanti tanti appuntamenti, andate a vederli su edison.it. Ci sarà anche spazio per l'arte e la cultura. La cultura per noi significa essere partner del Comune di Milano su tutti gli eventi, il più importante è la mostra di Leonardo che c'è in questo momento, quindi Edison e Comune fuori da Expo in città fanno numerose cose. Mito è uno dei partner, devo dire che la bellezza di questo periodo, di questa occasione che è Expo, è anche quello che si creano tante amicizie, tante alleanze anche tra partner diversi, uno di questi è con Mito, per cui una parte dei loro concerti sarà ospitati presso la Triennale, che è uno dei siti dove la Edison quest'anno anno farà vedere un po' di, in qualche occasione un po' di eventi, ma anche spettacoli musicali ed eventi culturali. Ci sarà anche un connubio tra musica ed energia sostenibile con piano tram, piano bike, che cosa sono? Ma sì, perché alla fine bisogna fare anche qualcosa di pop. Cosa vera è che alla fine di 6 mesi dedicati all'innovazione noi porteremo un protocollo, diciamo delle idee al governo. Quindi una cosa vera per lasciare qualcosa dopo Expo. Però è anche vero che bisogna fare delle cose un po' più pop e far vedere come l'energia cambia anche attraverso biciclette con i pannelli solari e altre cose più simpatiche che magari possono essere di interesse per la gente. Ma la sostanza è interrogarsi sul futuro e su quanto l'innovazione può far migliorare anche la situazione del pianeta, che come sapete è interessata da qualche problema che riguarda soprattutto le emissioni di CO2, quindi il tema dell'energia è centrale per Expo ed è centrale per Edison. Parliamo sempre di un evento che si lega a Expo, che riguarda la città di Milano, ed è un evento al quale io tengo davvero molto. Ce lo presenta in questo spot diffuso da qualche giorno in rete Giacomo Poretti. Siete invitati tutti, non qui, lunedì 18 maggio, Piazza del Duomo a Milano, ore 21. Serata di letteratura, fede, musica. Siete invitati tutti, pure i celiaci, quelli che hanno l'intolleranza al frumento, tutto, perché lì il cibo è speciale, va bene per tutti, capito? Non vi presenterete mica in 40.000 come l'anno scorso. Abbiamo tutti apprezzato, anzi io direi addirittura abbiamo tutti amato le parole di Papa Francesco all'apertura di Expo. Ne abbiamo parlato a lungo e a segnare simbolicamente l'inaugurazione della presenza della Chiesa in Expo, una serata che davvero mi sento di consigliarvi, si chiama Tutti siete invitati, lunedì 18 maggio alle 21 in Piazza Duomo a Milano, Diocesi di Milano e Caritas Ambrosiana, una raccolta straordinaria di aiuti per il Nepal e dei nomi veramente importanti. Allora io ve ne dico qualcuno: Giacomo Poretti, l'abbiamo appena sentito, Davide Van Desfros, Elisabetta Pozzi, Deborah Jurato, e ci sarà anche Piera degli Esposti, che tra l'altro affronterà una, mi hanno già detto, bellissima lettura della Genesi. Piera degli Esposti, che in questo periodo è amata più che mai anche per i suoi successi televisivi, la vediamo nell'irresistibile Grande Famiglia 3, ma insomma Piera degli Esposti che ha deciso di abbracciare questa causa di Tutti siete invitati per questa ragione, ce l'ha spiegato proprio lei. Io volevo che queste parole della Genesi, che ci fanno sentire come la terra sia una meraviglia, il creato, eccetera, e secondo me vanno ricordate oggi, che la terra è così trascurata e che praticamente c'è molta indifferenza per quello che succede, voglio dire, senza fare un discorso ambientalista, quello che succede nei ghiacciai, quello che succede nei mari, quello che... E infatti la terra manifesta la sua collera, purtroppo la manifesta nei paesi già tanto duramente provati, però manifesta. Ecco, io trovo che la necessità di ricordare questa meraviglia è un lavoro che l'attore, quando gli si dà l'occasione, deve fare. Per cui per me parlare di questo privilegio nel quale viviamo, che questo grande lavoratore, come lo chiamo io, così sembra in modo laico, ma insomma, grande lavoratore che in 6 giorni ha fatto quello che ha fatto, ecco, secondo me, come si fanno tante cose sulla memoria, ecco, anche questo va ricordato. Per quanto riguarda poi Paolo, nella lettera ai Corinzi andrebbe anche lì ricordata l'indifferenza che noi insomma, che in genere si ha verso gli altri, cioè che nessuno vede, nessuno guarda, nessuno, cioè tutti chiusi nei propri diaframmati, apparecchi e coso, e c'è pochissima attenzione. Non è che uno deve fare la carità perché deve andare a fare beneficenza o cosa, deve semplicemente essere vicino agli altri e aiutarli quando è necessario. Allora, questi due testi, in maniera diversa naturalmente, perché li distingue anche molto tempo tra loro due, e mi sono sembrati una possibilità di dire questo, ecco. È qualcosa che restituisce anche ancora più senso al mestiere dell'attore? Secondo me sì, perché il mestiere dell'attore è quello di denunciare, di consolare, come ho detto più volte, però dunque non è solo perché è noto, perché è bello, perché porge bene, perché non è questo. Lui ha una funzione, l'attore, la sua funzione è arrivare all'anima delle persone, perché lui è un inserviere dell'anima e questo lavoro deve fare, ecco. Sembra possibile, tutto sembra più vero. Trovo anche coraggio di specchiarmi nei tuoi occhi. Perdo ogni timidezza e non c'è ombra che mi tocchi. Solo pochi minuti, ma che sfiorano l'eterno. Finalmente respiro, finalmente mi sorprendo. Questa è Deborah Jurato, ci sarà anche lei, ve lo dicevo, il lunedì 18 alle 21 in Piazza Duomo, ci sarà Deborah Jurato e canterà l'Ave Maria, così come farà anche in un'esecuzione molto particolare Davide Van de Sfrosse, poi ve li ho detti tutti i nomi. L'ingresso è gratuito, però bisogna informarsi e iscriversi sul sito www.chiesadimilano.it, poi lì c'è subito all'ingresso del sito, si trova subito dove aderire e anche come fare per le donazioni per il Nepal. Questa è veramente un'iniziativa molto importante. Allora, noi ci ritroviamo tra poco perché è il momento di dare la linea al GR24 delle 17, ma poi dalle 17 alle 18 ci sarà il nostro appuntamento consueto con RadioTube insieme a Daniele Bellasio. Però prima che io me ne dimentichi, voglio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato intanto a questo Sabato del Villaggio. Allora, Sabato del Villaggio confezionato, cucito su misura insieme a me da Daniele Buonamici e da Cristian Goldoni. In regia sono molto felice perché per la prima volta con me c'è stata Roberta Frisani, Women Power, e c'era lì Gianmarco Ferronato che girava ma non stava facendo niente, stava facendo tutto Roberta. Allora, noi ci risentiamo tra poco dopo il GR24 delle 17, perché ci cambiamo d'abito, mettiamo quello del preaperitivo come l'ha definito qualcuno, perché sarà il momento di RadioTube. A tra poco.